GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Stop agli smartphone in classe, l'annuncio del ministro Valditara già applicato in qualche scuola come il Bertoni di Udine. Tassista minacciato con un coltello e rapinato di 130 euro nella notte a Trieste, le indagini in corso da parte della polizia. Avevano rubato bici da corsa per 300.000 euro e attrezzi agricoli in quattro arrestati dalla mobile di Pordenone. Sequestrati a Trieste 1.500 stecche di sigarette di contrabbando, erano nascoste in un mezzo con targa turca in letti modificati. Prima la salute, i comitati illustrano a Udine la petizione popolare che verrà inviata al Consiglio regionale sulle urgenze della sanità pubblica. Sono circa 30 centimetri di neve caduti finora in montagna, la perturbazione si esaurirà presto, ma poi tornerà il freddo. Monsignor Mazzoccato conferma: il nuovo arcivescovo di Udine sarà Riccardo Lamba, ausiliare di Roma. Presentata la rassegna Nano Valbruna, a luglio il forum sulla rigenerazione della natura montana e sulle start-up innovative e sostenibili. 12:31 minuti, buongiorno da Maria Spezia e Rita Micoli. Apriamo parlando di scuola e delle nuove linee guida del Ministero sull'utilizzo, o meglio sul non utilizzo, degli smartphone in aula. Siamo andati in una scuola di Udine. Il servizio. Cellulare vietato nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie, e utilizzo puramente didattico dei tablet. All'indomani dell'annuncio del ministro Valditara sulle prossime linee guida del Ministero dell'Istruzione del Merito, all'Istituto Bertoni di Udine, tra i più avanzati nella didattica con i tablet, è una mattina come tante altre. Qui i cellulari sono già stati eliminati da tempo, dalle primarie in poi. Ai licei vengono consegnati alla prima campanella, depositati in una stanza e restituiti a fine scuola. I tablet vengono utilizzati solo per potenziare l'apprendimento. Gabriele Ragogna, dirigente scolastico. Abbiamo quest'anno voluto, molto prima che circolassero anche voci ministeriali, inibirne l'uso anche durante la ricreazione. Temevamo che da parte dei ragazzi ci fossero resistenze e invece i ragazzi vedo che non hanno minimamente protestato. Il divieto di utilizzare il cellulare durante le lezioni era già stato anticipato da una circolare di dicembre. Che in classe sia una distrazione sono tutti d'accordo. È un mezzo molto, crea molto, molti scompensi, ecco. I bambini a scuola devono fare la scuola, non giocare sul cellulare. Non bisogna esagerare, ma noi stessi adulti non dobbiamo esagerare. L'Associazione Nazionale Presidi chiede coerenza a livello nazionale, anche alla luce dei milioni di euro in arrivo per acquisti di strumentazioni digitali. Luca Gervasutti, vicepresidente regionale della ANP. Riteniamo opportuno che ogni singola istituzione scolastica possa gestire in autonomia l'utilizzo dei cellulari in classe. Da più di 10 anni l'associazione MEC si occupa di uso consapevole delle tecnologie in classe. A Udine 800 famiglie all'elementare hanno sottoscritto un patto digitale per darsi regole comuni tra tutti i genitori. Giacomo Trevisan, coordinatore dell'associazione MEC. Il patentino dello smartphone che stiamo portando avanti da 3 anni ha raggiunto ormai il 90% delle scuole medie della regione e questo è proprio un segnale di come c'è la possibilità di rendere sistemico, quindi sistematico, l'educazione all'uso corretto di questi dispositivi. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. La Giunta regionale ha avviato l'iter per l'approvazione del disegno di legge che modifica le attuali norme sulle elezioni comunali in Friuli Venezia Giulia. Da un lato il disegno di legge contiene alcuni provvedimenti di carattere tecnico e dall'altro di natura politica. Le novità più rilevanti riguardano l'abbassamento della soglia prevista per l'elezione del sindaco al primo turno nei comuni sopra i 15.000 abitanti, che passerà dall'attuale 50% dei voti al 40%, e l'innalzamento da 2 a 3 del limite al numero di mandati per i sindaci nei comuni da 1.000 a 15.000 abitanti. La cronaca a Trieste: poco prima della mezzanotte è avvenuta una rapina a danno di un taxista in servizio in piazza Pestalozzi. Il rapinatore, un uomo che parlava con accento triestino e che aveva il volto celato, dopo essersi seduto nella parte posteriore del taxi, ha subito chiarito che non si trattava di uno scherzo e ha sfoderato un coltello, chiedendo al taxista di consegnargli il denaro guadagnato. Una volta carpito il bottino di circa 130 euro, l'uomo si è velocemente dileguato a piedi. Al momento la Polizia di Stato sta indagando anche attraverso il controllo delle telecamere di sorveglianza della zona per identificare il criminale. che potrebbe essere individuato anche grazie al filmato registrato nell'abitacolo del taxi che sarà in consegna da parte del derubato nelle prossime ore. E ora ancora cronaca con un'operazione della mobile di Pordenone che ha arrestato una banda di ladri. Sono state arrestate quattro persone, quattro cittadini romeni, dopo un'indagine della procura di Pordenone condotta dalla questura pordenonese, persone che avevano rubato diverso materiale di valore sia nella provincia di Pordenone ma anche nel resto del nord Italia. Erano trasfertisti del furto, dunque venivano in Italia per 7-10 giorni proprio per compiere questo tipo di furti, che in un caso aveva un valore di quasi 300.000 euro, erano una ventina di biciclette di alto valore. A dirigere, tra i dirigenti di questa indagine, il vice questore aggiunto della questura di Pordenone, Andrea Rosato. Insomma, come avete fatto a trovare queste persone che non erano radicate in Italia, quindi sicuramente per voi è stato un po' più difficile il lavoro? Sì, l'indagine nasce da un furto che si è verificato a Pordenone lo scorso 25 novembre, quando arriva una segnalazione in sala operativa di un furto di notevole entità in danno di un'attività commerciale che vendeva materiale per l'agricoltura, in particolare gruppi elettrogeni e seghe elettriche. Da lì nasce l'indagine, che si sviluppa attraverso ovviamente la visione delle telecamere, dei sistemi di videosorveglianza, un'analisi attenta dei tabulati telefonici e anche un riscontro, una collaborazione anche con il servizio per la cooperazione internazionale di polizia, in particolare che ci ha permesso di individuare l'auto a bordo della quale i malviventi si spostavano per raggiungere i vari obiettivi, e da lì abbiamo poi intensificato le indagini per chiudere il cerchio. Di pochi giorni fa la richiesta di custodia cautelare che è stata eseguita ieri a Verona dai colleghi della squadra mobile Veneta, proprio perché c'era evidenza che queste persone erano tornate in Italia proprio per compiere altri reati. Pordenone, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora cronaca, i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM, i finanzieri del secondo gruppo in servizio presso il porto di Trieste, hanno sequestrato un ingente quantitativo di sigarette di contrabbando. I tabacchi erano nascosti a bordo di un semirimorchio partito dalla Turchia che trasportava un rilevante numero di mobili regolarmente dichiarati. Grazie all'attività di controllo di doganiere finanzieri, ogni singolo arredo è stato ispezionato, permettendo di rinvenire 1.500 stecche di sigarette nascoste in due armadietti e 9 letti contenitore. In questi ultimi erano stati modificati con un doppio fondo incompensato che permetteva il trasporto di circa 100 stecche di sigarette ciascuno. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore di Trieste, Matteo Tripani, sono tuttora in corso, mentre le sigarette sequestrate saranno a breve distrutte. Un TAR virtuoso, praticamente senza pendenze. Con queste parole inaugura il nuovo anno giudiziario il neopresidente del TAR del Friuli, Venezia Giulia, con una cerimonia in prefettura. Il maggior numero di ricorsi riguarda contenziosi in materia di forze dell'ordine e appalti pubblici. Un piccolo grande TAR, quello del Friuli Venezia Giulia, che ha saputo risolvere entro l'anno il 60% dei 426 ricorsi depositati nel 2023. Uno dei tribunali più virtuosi d'Italia, il TAR di Trieste, praticamente senza arretrato, a dirlo con soddisfazione al Presidente in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario Carlo Modica de Mohac, che si è insediato a Trieste lo scorso luglio, e ringrazia il lavoro fatto dal predecessore Oria Sette Soldi e da tutto il personale. Sono rimasti 188 ricorsi non risolti, ma destinati ad essere chiusi a breve. Il più alto numero di ricorsi sono stati presentati dalla pubblica amministrazione, che riguarda le forze armate, 99 ricorsi in un anno. I contenziosi riguardano soprattutto dinieghi di trasferimento, sanzioni disciplinari, equo indennizzo. L'altro tema caldo è quello degli appalti, 26 ricorsi presentati nel 2023, migliorata la durata media della loro pendenza, calcolata dalla data di deposito a quella di pubblicazione della sentenza, in soli 58 giorni, un dato che mette il TAR del Friuli Venezia Giulia in testa alle classifiche per capacità di risoluzione, quando in Italia la durata media è di 107 giorni. Un altro dato che ci incuriosisce è l'importante crescita in materia di ricorsi in sanità pubblica, quadruplicati contenziosi da 6 del 2022 ai 23 di quest'anno. Sembra si tratti, per esempio, di ricorsi per mancato accreditamento da parte di aziende private nel settore pubblico. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Come Comitati per la Salute Pubblica di Friuli Orientale e Occidentale lanciano una petizione che è stata presentata a Udine. Parte oggi nelle piazze del territorio regionale la raccolta delle firme per una petizione popolare per chiedere al Consiglio regionale di garantire il rispetto dei tempi di attesa della sanità pubblica, garantire nei fatti il medico di medicina generale e la guardia medica a tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia. La petizione Prima la Salute è stata presentata alla Sala Pasolini nel corso di un incontro dei quattro comitati promotori: Io voglio l'ospedale a Cividale, Tutela della la salute nelle valli del Natisone, Gemonesi a difesa del San Michele, Pedemontana, Viva Maniago e Notai alla Sanità Sasceile, che per l'occasione avranno il supporto dell'Associazione Diritti del Malato della provincia di Udine. Gabriele Agrizzi, Associazione Diritti del Malato. Questa petizione è una petizione a difesa del Servizio Sanitario Nazionale, perché quando noi sentiamo parlare in modo continuo, pressante, quasi sollecitante direi, di privato, privato, privato, questo significa anche cercare di cambiare la mentalità delle persone. Noi cerchiamo di portare avanti un programma che sviluppi ancora di più il Servizio Sanitario Nazionale, ad esempio anche chiedendo l'assunzione di personale attraverso la modifica dei concorsi per iscriversi all'università. Ovviamente poi parliamo delle liste d'attesa, che quello è un male purtroppo che non si riesce, o la volontà politica di risolvere questo male non c'è. Tra le richieste contenute nella petizione, la richiesta prevista dalla legge regionale del pagamento diretto da parte dell'azienda sanitaria delle prestazioni effettuate dal cittadino in altre strutture, qualora non siano rispettati i tempi previsti. Udine, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Il tema delle emissioni degli inquinanti tiene banco nel dibattito politico anche locale. La decarbonizzazione, l'uso delle auto elettriche e gli efficientamenti energetici sono misure di per sé positive, dice il sindaco di Pordenone Ciriani. Il problema è rappresentato, aggiunge, dalla modalità di introduzione da parte della Commissione europea alla decarbonizzazione totale prevista per il 2050 e alla diminuzione fino al dimezzamento delle emissioni di CO2 entro il 2030. Secondo il primo cittadino di Pordenone mancano due presupposti fondamentali. Il primo riguarda le materie prime, di cui la Cina è ricchissima, oltre a gestire il 70% del mercato e dell'approvvigionamento. Il secondo riguarda i capitali. Inoltre non va dimenticato, conclude Ciriani, che la Cina produce meno del 10% delle emissioni globali e l'Italia lo 0,8%. Pertanto, anche se dimezzassimo le nostre emissioni, conclude il sindaco di Pordenone, l'impatto dal punto di vista mondiale sarebbe pressoché ininfluente. 12:43, passiamo al meteo. Il cielo è coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 12,5 gradi. A Gorizia 12, a Pordenone e Udine 9,5 gradi. In area montana Tolmezzo e Tarvisio 2 gradi, a Piancavallo 1 grado, a Sappada 0, a Forni di Sopra 1 grado sotto lo 0. In quota sul Monte Lussari e sul Monte Zoncolan ci sono meno 2 gradi sotto lo 0, sulla costa Lignano e Grado 13 gradi. Per conoscere un quadro sul meteo in corso e sulle previsioni del fine settimana abbiamo parlato con l'esperto dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, Francesco Sioni. Nelle ultime 12 ore, per quanto riguarda la zona montana, abbiamo già avuto accumuli attorno ai 20-30 centimetri di neve in quota. Attualmente la quota neve è attorno ai 900-1000 metri circa. L'intensità delle precipitazioni aumenterà nel corso del pomeriggio e quindi ci aspettiamo appunto nevicate intense in quota, quindi in alcune zone, specie sulle Prealpi Giulie, in quota potremo avere più di un metro di neve. Tra sabato e domenica la saccatura principale sarà passata, quindi ci aspettiamo solo dei rovesci sulla zona montana, quindi delle piogge e delle nevicate appunto intermittenti, quindi al più tra sabato e domenica potremo avere ancora un quantitativo attorno ai 10-20 centimetri in quota, la quota neve rimarrà attorno ai 1000 metri circa. Per quanto riguarda le precipitazioni, che cosa ci possiamo aspettare, tanto più che è in corso un'allerta meteo in regione? nelle prossime 12 ore buona parte della regione sarà interessata appunto da precipitazioni intense, anche molto intense sulle prealpi Giulie, più moderate invece andando verso la costa. E queste continueranno fino a questa sera, quando ci sarà il passaggio di un fronte che potrà portare ancora qualche rovescio poi in montagna, ma la fase principale di piogge sulla regione si esaurirà circa per le 10 di sera. Domenica che tempo si prevede? Domenica sarà una giornata con variabilità sulla pianura, probabilmente tempo migliore sulla costa senza precipitazione, invece maggiore nuvolosità ancora sulla zona montana, potremo avere ancora dei rovesci intermittenti e quindi delle nevicate sporadiche a partire da 1000 metri circa. Le temperature resteranno stabili? Per quanto riguarda le temperature avremo delle massime attorno ai 10-13 gradi sia sabato sia domenica. E per la prossima settimana è possibile dare un'idea di come si presenterà il meteo? La tendenza per lunedì e martedì è ancora incerta, ma attualmente sembra che appunto avremo una nuova fase di maltempo, in particolare martedì, con nuove precipitazioni e anche nevicata in quota. Le temperature però resteranno stabili? Le temperature saranno in leggero calo all'inizio della prossima settimana. Si è spenta la triestina Irene Camber, medaglia d'oro di scherma alle Olimpiadi del 1952 a Helsinki. È stata una tra le 10 atlete italiane di ogni epoca capace di aggiudicarsi sia la medaglia d'oro ai giochi olimpici che ai campionati mondiali, ha scritto il consigliere comunale Piero Camber sul suo profilo social. Nella disciplina del fioretto ha infatti vinto a Helsinki 1952 il bronzo a squadre a Roma nel 60. Nei mondiali il suo palmarès annovera un oro individuale a Bruxelles nel 53, uno a squadre a Parigi nel 57, un argento e 5 bronzi. Commissario tecnico della nazionale fino al 1972, nel 1915 ha ricevuto il collare d'oro al merito sportivo, uno dei più prestigiosi riconoscimenti del CONI. È stata inoltre la prima donna italiana laureata in chimica industriale. E da Piazza del Patriarcato a Udine la conferma: il successore di Monsignor Mazzoccato alla guida dell'arcidiocesi friulana sarà Riccardo Lamba, vicario di Roma. L'arcivescovo Andrea Bruno Mazzoccato, che ha iniziato il suo ministero pastorale a Udine nel 2009, aveva presentato a settembre la rinuncia a Papa Francesco per raggiunti limiti di età, restando però in carica fino alla nuova nomina. Monsignor Lamba è nato a Caracas in Venezuela 67 anni fa. Dopo la laurea in medicina ha conseguito il baccalaureato e la licenza in psicologia presso la Pontificia Università Gregoriana. È stato nominato vescovo nel 2022. Il sentimento principale con cui accoglierlo è la fede, ha detto l'arcivescovo Mazzoccato. Iniziamo quindi a pregare per il nuovo arcivescovo. E ancora una notizia: c'è un appuntamento giovanile di preghiera nel tempo di Quaresima. Oggi alle 20:30 il Duomo di Udine ospiterà la sveglia, che sarà presieduta dal Monsignor Mazzoccato. Al Teatro Rossetti di Trieste dopodomani sarà in scena lo spettacolo Oberdante per festeggiare il secolo di vita del liceo scientifico Oberdan. Protagonisti un gruppo di studenti e studentesse dell'istituto. Nel servizio, oltre le voci di due giovani, sentiremo anche il professor Giovanni Pellegrini, responsabile del gruppo musica del liceo, e la vicepreside Virginia Giusti. Promettono che sarà uno spettacolo sorpresa per tutta la città di Trieste, quello che i giovani oberdanini, come si chiamano tra di loro, stanno preparando per festeggiare il secolo di vita del loro liceo scientifico, l'Oberdan di Trieste. 100 anni e non sentirli nell'entusiasmo degli studenti e delle studentesse che abbiamo incontrato durante le prove, in vista dell'appuntamento domenica prossima al Politeama Rossetti. 100 anni fa, nel 1923, ragazzi come noi varcavano quella porta e facevano le nostre stesse cose, allora è emozionante. Continua ad esserci questo spirito berdanino che ci tiene legati, uniti, ovviamente non come 100 anni fa, però comunque è rimasto un qualcosa da questi 100 anni. Massimo Riserbo sullo spettacolo che vedrà ragazze e ragazzi protagonisti sul palco. Lo spettacolo si intitola Ober Dante in musica. I ragazzi si alterneranno suonando e cantando canzoni storiche della nostra tradizione cantautorale a versi danteschi. 1100 le ragazze e i ragazzi attualmente iscritti, ma insieme a loro nelle aule continuano a vivere generazioni di studenti e alcuni di loro torneranno presto a far visita al liceo in occasione proprio del centenario. Tutti gli ex studenti potranno rivivere la scuola e venire a vedere se è rimasta quella che era quando loro frequentavano. Cerchiamo sempre di magari creare degli incontri con ex alunni se possibile. Ottavio Missoni, Ugo Carà, l'ex ministro Patuanelli e in ambito sportivo Sara Gama, che speriamo venga da noi a trovarci, e Michele Ruzier della Pallacanestro Trieste, e ultime freschissime Veronica Gante e Lucrezia Cergol, che hanno appena conquistato il passo olimpico con la nazionale di pallanuoto. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Approda per la prima volta a Trieste il cartellone di incontri Filosofia in città, lettere sull'umanismo, curato da Beatrice Bonato e promosso dalla Società Filosofica Italiana, un progetto ideato per riflettere intorno alla relazione tra cultura scientifica e cultura umanistica. Alle 18 di oggi a Palazzo Gopcevic a Trieste si parlerà di attualità dell'antico, si confronteranno il filosofo Raoul Kirchmeier e la grecista e filologa Monica Centanni. Quest'ultima rivedrà assieme al pubblico la figura di Ulisse non nella sua immagine positiva di campione della ragione occidentale, ma negli aspetti meno lusinghieri e più controversi raccontati dalle stesse fonti antiche. È spesso proprio dal passato dunque che emergono valutazioni contrastanti su figure in seguito mitizzate in modo unilaterale. L'ingresso all'incontro è libero e gratuito. Parliamo ora del Forum Internazionale del Friuli Venezia Giulia Nano Valbruna, Festival dei Giovani sulla Rigenerazione, che quest'anno è in calendario dal 18 al 24 luglio per riunire nel cuore delle Alpi Giulie scienziati, imprenditori, docenti, divulgatori ed esperti internazionali con centinaia di giovani da tutto il mondo e parlare di ambiente e tutela degli ecosistemi con laboratori, incontri ed esperienze in natura. La presentazione si è tenuta poco fa nella Sala Pasolini della sede della regione a Udine, in cui si è parlato naturalmente anche di Baite Award, la competizione internazionale che premia progetti di start-up innovative e sostenibili di studenti, giovani, ricercatori e aspiranti imprenditori. Il coordinatore dell'iniziativa, Stefano Cercelletta, ci ha spiegato a chi è rivolto questo premio. Tutti i ragazzi, giovani imprenditori e studenti universitari che vogliono buttarsi nel mondo dell'imprenditoria e che quindi vogliono aprire la propria start-up. I ragazzi che passano la preselezione che opportunità hanno poi? I ragazzi che passano la preselezione potranno seguire da vicino il nostro festival a Valbruna, all'interno del quale si svilupperà un percorso formativo intensivo di una settimana con workshop e lezioni su tutti i livelli dell'imprenditoria e tutti i livelli, diciamo, di innovazione dell'imprenditoria. Di fatto poi li avete seguiti questi ragazzi che hanno vinto i premi precedenti, sono diventate vere e proprie realtà le startup con cui hanno vinto il premio? I ragazzi che hanno vinto le due edizioni precedenti li abbiamo seguiti e hanno avuto sicuramente un percorso di successo. Noi comunque, specialmente nella fase iniziale, le abbiamo sicuramente dato le basi grazie ai nostri workshop su come affrontare il mondo dell'imprenditoria. Ai ragazzi all'ascolto che cosa consiglia? Partecipare perché? Volevo ricordare a tutti quelli all'ascolto che comunque questo percorso formativo è aperto a tutti ed è gratuito, quindi chiunque voglia venire a Valbruna dal 18 al 24 luglio è il benvenuto. E penso sia un'opportunità per fare sicuramente networking e per fare nuove conoscenze. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. proiettato in anteprima questa mattina al Museo dell'Arte Fabbrile e delle Coltellerie di Maniago all'interno di premiazione del concorso letterario Lama e Trama, il video Suoni di lame lucenti realizzato dalla cooperativa sociale Itaca, che nei mesi scorsi ha gestito una serie di esperienze laboratoriali rivolte a persone con disabilità o in situazioni di fragilità. Le attività si sono svolte nell'ambito del festival promosso dal comune di Maniago, città delle Coltellerie, dalla biblioteca civica e finanziato dalla regione. Segnaliamo ora alcuni appuntamenti culturali di oggi nella sala consiliare di San Pietro al Natisone alle 18:30. Per il cartellone degli appuntamenti con la storia, Antonella Salomoni, docente di storia contemporanea all'Università di Bologna, terrà una lezione sull'Europa tra Stalin e Hitler 1939-1941. L'incontro sarà introdotto dal direttore scientifico del premio di Friuli Storia, Tommaso Piffer. A Cividale inaugurazione del corso di lingua e cultura friulana e primo appuntamento con le conferenze, questa sera serate con la genealogia alle 17 nella biblioteca civica. All'Università di Trieste, nell'aula dell'edificio D, in Piazza Europa, è in calendario l'evento Sana e Robusta Costituzione, Stati Generali dello Sport, all'Università degli Studi di Trieste, appuntamento alle 14:30. Investire in condizioni di incertezza all'auditorium alla Fratta di San Daniele, ne parla Ruggero Gertelli dell'Università di Siena alle 19:30. A Gorizia, nella sala conferenze dei musei provinciali di Borgo Castello, verrà proiettato La seta di Ico, filmato inedito sulla filiera tessile, realizzato nel 1938 da Ico Parisi e recentemente restaurato. Presenterà l'incontro Paolo Aquilini, già direttore del Museo della Seta di Como. Appuntamento alle 17:30. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. Alla parte tecnica Andrea Fontanot e Federico Comar. In segreteria ha collaborato Valentina Veneruso. Da Maria Spezia e Rita Micoli, grazie per l'ascolto, l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.